Partiamo? Eh sì, dai, auguriamo un buon Berlusconi di nuovo a tutti. Buon Berlusconi a tutti. Ma infatti, visto che oggi, tra l'altro, l'argomento abbiamo deciso gli ultimi minuti della scorsa volta che era Milano, per un attimo ho pensato che poteva essere una gag interessante se facevamo un'imitazione di Berlusconi, visto che lui è di Milano, per tutta la puntata. Poi Beh, ma però potrebbe essere un'ottima idea. Tra l'altro mi ritrovo nella sede di Exelgio di Milano 3. su un bellissimo complesso abusivamente costruito negli anni 70, quando l'edilizia era un mercato florido. Condonato tutto. E nel caso non fosse condonato, io ovviamente mi dichiaro in ospedale. Esatto, bestiale. Comunque la sanità lombarda quando deve funzionare, funziona. Sì, per Berlusca funziona sempre. Tu immagino invece sia su un terrazzino ad Arcore. Sì, esatto, Brugherio per la precisione, dove per oggi non c'è la nebbia, non ci sono così tanti evasori fiscali come ci aspetteremmo, e invece no, sono ad Atene come al solito e c'è una bellissima, un bel sole e altrettanti evasori fiscali quanto in Brugherio, penso. Fantastico. Va bene, quindi puntata all'insegna di Milano, Puntata partiamo. all'insegna di Milano. Andiamo con Nanni Svampa, Porta Romana bella. Musica salsa, anche perché serve molto, perché fa bene, cominciate a muovervi, va bene all'artrosi, poi se vi alzate in piedi con questo movimento, dai, musica salsa, Caraibi, Santo Domingo, dove le aziende mandano i dipendenti in viaggio premio a prendere l'AIDS, avete presente? Porta Romana bella, Porta Romana, ci stanno le ragazzine che te la danno, ci stanno le ragazzine che te la danno. Prima la buonasera e poi la mano, e gettami giù la giacca ed il coltello, che voglio vendicare il mio fratello. La via Filangieri è un gran serraglio, la bestia più feroce è il commissario. Via Filangieri che è una campana, ogni volta che la suona le nacundana. Prima faceva il ladro e poi la spia, e adesso è delegato di polizia. E sette, sette, sette, arriva la volante, non c'è nessuno. Dimmi chi te li ha fatti quei begli occhioni. Li ha fatti la mia mamma lassù i bastioni. Dimmi chi te l'ha rotta la prima volta. Bersaglier ciclista sotto la porta, ma che è duro in bicicletta. Ha fatto più battaglie la tua sottana che tutta la marina americana. Ha perso più battaglie il tuo reggipeto, General Cadorna Caporetto. Ha fatto più battaglie le tue giarrettiere che tutta la Gestapo e le camicie nere. Poi ne abbiamo fatte tante altre negli anni, perché a proposito di guerre, ma più ci si avvicina alla tua età più diventa drammatica, tanto quella, maggior ragione quella contemporanea. Allora, abbiamo fatto per esempio i tuoi collan con Moshe Dayan, poi però non riesci più a parlare di queste cose, allora per tirare sul morale si torna al clima sexy retro. Olimpia, Olimpia, Olimpia te me tradisce. Te dice che te vegne, te pete pise. Questa è anche la più fine delle... Ci sono tre parole in fondo al cuore. La gioventù, la mamma ed il primo amore. La gioventù la passa, la mamma muore. Te resti come un pirla col primo amore. Adesso la prima strofa, tutti andando morendo con giù le luci. Porta rumana bella, porta rumana. Ci stanno le ragazzine che te l'hanno. Stanno le ragazzine che te l'hanno. Grazie, grazie mille. Arrivederci a tutti. Va bene, quindi oggi alla fine, dopo ben due minuti di discussione della scorsa settimana su che cosa avremmo, di cosa avremmo parlato questa settimana, ci troviamo a discutere di una cosa che conosciamo benissimo, o perlomeno fingiamo. Fingiamo perché in verità non ci abitiamo da tempo. Esatto, e possiamo dire che entrambi siamo milanesi, e già questa è una cosa tutto sommato interessante. Aspetta, che... perché già qua si potrebbe dire qualcosa. Per esempio, non sono davvero milanese. Da quante generazioni sei milanese? Allora, la verità è che io ho la fortuna del cognome che è Manzoni, quindi tutto sommato un buon pedigree, però in realtà mia mamma è toscana, e se non sbaglio mio nonno è di discendenza napoletana, quindi generazioni da parte di padre tante, da parte di madre manco una. Ok, quindi non sei l'unico nato a Milano, insomma. No, esatto, ci sono nato, mia mamma è una di quelle persone che è stata adottata da Milano nei ruggenti anni 80 e nella famosa Milano da bere, e ci si è trovata molto bene, perlomeno stando ai suoi resoconti. Va bene, io invece sono l'unico nato a Milano della mia famiglia, così per info. Ma tu sei sia padre che madre proprio milanesi? No, parmigiani. Ah, sono la pecora nera. Sei nato dove? Al Buzzi o alla Mangiagalli? Ah, bella domanda. Qua dietro. Che ospedale c'è? Qua dietro. Non è il Buzzi, Mangiagalli. Sì? No, quello che c'è lì dietro Exal c'è il Buzzi, è quello dove c'è Gerusalemme, sì, no? Sì. No, ma non sono nato lì. Diremo al Mangiagalli, sì, per tutti gli ascoltatori interessatissimi a questa notizia. Potremmo cominciare con un sacco di sbrodolate su Milano, oltre a sulle sbrodolate su dove siamo nati, su quanto sia cool, oppure anche su quanto cazzo costi. In realtà abbiamo voglia di parlare un po' per dar voce ai milanesi che parlano di Milano, perché, diciamolo, una delle frasi... Non so se anche te hai avuto questa esperienza, però che si è sentita più volte durante l'università, era che i milanesi non esistono, che non si fanno vedere, che tutte le volte mi toccava spiegare che io sì, sono nato e cresciuto a Milano sotto occhi sgomenti. Però ne parli minga il milanese. No, parlo minga il milanese. È più probabile che parli romano, figurati, per quanto che ti fa capire quanto mi senta attaccato a questa città. Ma questo è quello che vogliono sapere tutti. Dove sono quelli che parlano milanese? Perché è sparito il dialetto, insomma? Questa è una cosa che... di cui ho sentito un bel podcast, per dire, e il motivo è che alla fine a Milano si è riempita di un sacco di persone che non sono milanesi, insomma, ha subito un sacco di, parliamoci, cioè di migrazione italiana, nel senso, di persone un po' da tutte le parti del mondo. Alla fine quello che si parla a Milano credo che sia più un italiano con cadenza milanese fastidiosa, quella del cotoletta, del pesto e di queste cose qua, e poi con qualche inglesismo, no? Anche il nè è sparito dappertutto. Sai dove sentivo parlare milanese? A Formentera, io lo sentivo a Formentera. È vero, è verissimo, probabilmente anche a Porto Rotondo o a Porto Cervo si sente più parlare milanese che non in Duomo. Però no, quando io abitavo al Parco di Trenno, dove c'era una ricca comunità di ultra settantenni, lì c'erano, diciamo, due lingue, quella dei tamari di Bonola under 18 e quella degli ultra 70 milanese strettissimo. Fantastico, invece noi abbiamo una conoscenza che cerca di recuperare il dialetto, addirittura fa poesie, recita in milanese. Adesso poi quando arriva The President gli chiediamo nome, cognome, contatto, così tutti possono andarsi a vedere qualche poesia in dialetto. E speriamo anche di riceverlo qua in Exalge prima o poi a raccontarci in milanese. Eh sì, perché si è perso, perché se ci pensi appunto Nanni Svampa, ma anche Cocchi e Renato, Annacci, no? Erano tutti un po' dei portatori di questo, di questa lingua, di questo milanese. Sì, l'unica cosa che sappiamo dire adesso è Gal Suv, il Bauscia milanese. O Giargiana, che non è minimamente una parola milanese, a quanto io ne sappia. No, forse deriva da Aldo, Giovanni e Giacomo. So, dal milanese imbruttito che, che è diventato. Comunque abbiamo delle idee su questa città che possono essere definite in comune, altre invece meno, no? Per cui tu, insomma, ci vivi ancora, hai iniziato questa cosa super di Exalge, per cui mi sento felicemente partecipante, e invece 4-4 me la sono filata. Giusto, hai fatto, direi hai fatto bene, anch'io me la sono filata per vari anni, poi sono tornato... Hai fatto proprio bene. Hai fatto proprio bene, ma anche il Berlusca non ci stava qua, è difficile starci qua se non trovi la tua Osi. Lui si è fatto la sua ad Arcore, si è fatto tutte le sue città satellite e basta. E invece tu che Osi ti sei fatto? Io l'oasi di Exalge la considero abbastanza particolare, molto vivibile. Ci sono dentro sempre, perché appunto mi sembra molto diversa da Milano. È un tentativo di oasi, secondo me, che sta riuscendo abbastanza bene, diversa da ciò che la circonda, come dovrebbe essere. Nel deserto, una fonte, insomma. Beh, poi è un'oasi anche perché siete pieni di delle piante più belle di tutta Milano, mi viene da dire. Addirittura, non so, non saprei se menarmela così tanto, però sì, dai, ci proviamo. Abbiamo un po' di piante particolari e un po' di orti. Cerchiamo di fare orti urbani. Prima dovete rubare, sai cosa, i fenicotteri da Villa Invernizzi e poi siete il nuovo luogo cult del turismo milanese. Ma magari faremo qualche nido e aspetteremo che emigrino da soli. Potrebbe essere una buona idea. Faremo una bella pozzetta con un po' di gamberi rosa e vediamo se vengono a mangiare. E se non fosse così, però, immagino che non sareste a Milano. No, io penso di no. Sono venuto apposta per questo progetto e sono qui per questo, diciamo. Avevo tra le alternative, beh, in verità sono venuto anche per fare il militare, cosa che poi non ho potuto fare. Ma va? Tu hai fatto l'accademia? No, avrei fatto corso da volontario per un anno, ma nel frattempo mi sono dedicato a tutto questo progetto che poi è diventato progetto di vita, e il militare è stato abbandonato per ora perché in Italia non posso più farlo per motivi di età. Ma come mai ti era venuto sto trip? Ma così, per imparare, per vedere dal di dentro e sfruttare un po' quello che poteva essere un allenamento militare. Ah, interessante, perché non penso di conoscere nessuno che abbia avuto, diciamo, questa vocazione, se così la si può chiamare, no? Sì, di giovane età, cioè dei nostri coetanei, anch'io zero. Ho avuto forse qualche amico in comune che ha avuto qualche amico che l'ha fatto, ma niente di più. Famoso zio del cugino. Il zio del cugino, esattamente. E allora, come non cominciare subito con una bella sbrodolata su Milano? E c'è una grandissima sbrodolata sui ruggenti anni 2000 di Milano, che oramai non mi appartengono più, ma che tutto sommato mi ricordavano le biciclettate del 2006, le prime biciclette che mi hanno rubato, e di cui una incredibile. Stavo preparando l'esame di terza media, mia mamma lavorava in via Monte Napoleone in un negozio di moda, parcheggio la bici in Monte Napoleone e me la rubano in via della Spiga, e dici: come cazzo è possibile che mi rubino una bicicletta in via Monte Napoleone? Succede. Qualcuno direbbe quindi, che ti sei dimenticato di legarla. Non credo, cioè avevo trovato io non credo. Quindi ero abbastanza convinto. Ok, ci sta. Anche a me l'hanno presa in posti impensabili, direi. Sì, cioè l'ho lasciata parcheggiata fuori da Macao innumerevoli notti, non è successo niente, invece in pieno giorno in via della Spiga me l'hanno fottuto. Vabbè. Geniale. E quindi niente, canto del 2006, esame di terza media, le prime pugnette e i grandiosi mondiali di Germania. Milano, Milano. Milano! Oh! Milano, sguardo distratto, bacio di ghiaccio, capto, frequenza di intolleranza, mancanza di tempo e di vento, intenso traffico denso, ripenso al motivo per cui vivo tra il grigio di questo cemento. Ci sono immigrati in edifici occupati e gli sciuri imboscati dietro sicuri giardini privati, dai quartieri duri e locali, tra soglie avvocati, tra muri e palazzi pittati e futuri pazzi sclerati. Ma siamo alla fine della settimana e sta scendendo il sole dietro Porta Romana. Sei troppo bella per dirti addio, tu chiami e poi noi tutti ubbidiamo, e tra chi nomina il tuo nome in vano ci sono anch'io. Milano, Milano, Milano, quando sono lontano voglio tornare. Milano, quando ci sono voglio scappare. C'è un foglio di rame per la vivace attività industriale. L'industriale si droga e poi vota che la droga fa male. Ipocrisia nuda come modelle sul cartellone dei saldi fuori stagione in Monte Napoleone. Bambini sniffano colla alla stazione centrale e piazza affari tracolla su vita superficiale. Ma c'è chi tiene accesa la lotta, la manifestazione paga porta Venezia. Sei troppo bella per dirti addio, tu chiami e poi noi tutti ubbidiamo, e da chi nomina il tuo nome in vano ci sono anch'io. Milano, Milano, nel tuo veleno che noi respiriamo ci sono anch'io. Milano, parcheggio ed è sempre peggio. Settimana della moda, vita mondana in coda in autonoleggio. L'alternativo beve vino vicino agli yuppie in brera. Sera tema tropico latino, tutti in fiera. Tra chi la pina per la cocaina, sento un vecchietto che canta in dialetto alla sua madonnina. Quando la nebbia scompare in lui mi riconosco, come una goccia nel mare io mi ritrovo al mio posto. E temo a te quello che sono, e alle luci di un tramonto sopra Piazza del Duomo. Sei troppo bella per dirti addio, tu chiami e poi noi tutti ubbidiamo, e tra chi nomina il tuo nome in vano ci sono anch'io. Milano, Milano, nel tuo veleno che noi respiriamo ci sono anch'io. Milano, Milano, eccoci qua, Milano degli Articolo 31, che ha accompagnato le nostre infanzie. Assolutamente sì, beh, J-Ax fu un grande ambasciatore della milanesitudine, oserei dire, no? Abbastanza, direi. Abbastanza. Ma adesso parliamo un po' di romanticismo anche, perché no? Alla fine una città è anche un pelo di romanticismo, di sentimenti, oserei dire. E quindi la domanda romantica che ti faccio è: qual è la piazza che ti piace di più di Milano? Se c'è una via o un posto che dici, ma qua mi fermo, mi fumo una sigaretta, mi metto a pensare al mondo, la vita e tutto il resto, o in una perifrasi ancora più romantica, qua porterò una ragazza perché è un posto per cui la faccio innamorare, insomma. Quali sono questi posti? È una domanda abbastanza difficile. Devo dirti che ho delle gravi difficoltà a orientarmi in questi termini a Milano, e forse la domanda inversa dopo mi risulterà più facile, se arriverà. Io fumo parecchio a Milano e penso anche al mondo parecchio in continuazione, in termini non troppo positivi. Mi è capitato di trovare dei bei posticini romantici, diciamo, per le uscite romantiche con le pischelle, ed era quasi sempre o scelto da loro, molto facile, vicino a casa loro. Ma se devo far innamorare una pischella, alla fine la porto in montagna o al mare, e sicuramente ho qualche jolly in più di un bacio appoggiato a un muro in una via di Milano. In piazza, in piazza, in via, nel bagno, insomma, di tutta la città, praticamente, visto lo stato di pulizia. Al McDonald's di Piazza Cordusio, anzi. Forse... Esatto, esatto. Alla Decathlon di Piazza Cairoli. Comprando delle nuove magliette Domino. Sì, o il Brico, al Brico Center. Dette queste banalità, comunque a Milano ho girato poco negli ultimi 9 anni, perché appunto sono partito, prima ero pischello, quindi non sono un grande conoscitore. Ti direi una cosa che mi è balzata in mente, via Fiorichiari in Brera, e tutte quelle viettine mini piene di gente riescono a farmi un po' dimenticare di essere nel grigio. Brera anche molto carina in generale, i portici della Rotonda della Besana, magari i portici della Statale anche, i giochi acustici dei colonnati del Palazzo della Ragione in Duomo, che se non avete mai provato dovreste provare, nonostante siano il cesso di migliaia di persone che trafficano per il centro di Milano. E a me ricordi una grande vagina, se posso essere sincero. Che cosa? Il Palazzo della Ragione? Il Palazzo della Ragione. Della Ragione, della Ragione. E molto carino il Giardino degli Aromi ad Affori, su cui sono stato recentemente a conoscere. Neanche io lo conoscevo. Sono stato recentemente per fare un sopralluoghino di orto urbano. È molto bello, un ex manicomio, c'è anche galline, casette sull'albero, un sacco di orti e frutteti. Il manicomio prima avevano dei filari di tantissimi frutti, pere, mele, peschi. Hanno un sacco di varietà ormai autoctone, diciamo, del nord. Hanno il fico lunghet milanese, che fa buoni fichi anche al nord. Varietà quasi sconosciute, si occupano molto di biodiversità. Se intanto se sentite battere del martello, è qualcuno che lavora la pelle di là. Perché Exalge è anche questo. Perché Exalge è anche un laboratorio di pelletteria. Comunque è un posto particolare, che c'è anche chi suona il sax la sera passeggiando per i ciottolati. Adesso abbiamo perso Manz in chiamata, probabilmente si riconnetterà a breve dall'hotspot, perché ad Atene il wifi non è così eccellente. Eccomi. È tornato con l'hotspot stavolta? In realtà no, sto cercando di continuare a utilizzare questo maledetto wifi. Come dici tu, fucking developing countries. Fucking developing countries, maledette. Come? A me ci sono dei posti che piacciono molto. Ti sparerei Milano di Lucio Dalla, se vuoi, prima di chiederti... Vai, lubrificami. Ti lubrifico. Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte, Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero, Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano a portata di mano ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te, sottoterra o sulla luna. Milano 3 milioni, il respiro di un polmone solo, che come un uccello gli spando ma anche riprende il volo. Milano... Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero. Gli spari lo manchi, riprende il volo. Milano perduta dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero. Abbiamo superato l'ora del martello, forse siamo riusciti a pacificare un momento i battitori di pelle. E un paio di tangenti. Un po' di tangenti, sì. È bastato prima la minaccia non ha funzionato, siamo passati alle tangenti. una bella fetta di pane salame, via. Esatto. E niente, io ti volevo chiedere anche a te quali scorci fai vedere alle tue sciure. I paesi del terzo mondo ancora si complottano contro la connessione wifi di Jack Mans. Eccolo. Eccoci. A me di posti da sciure non so, però posti di cui mi sono innamorato io... C'è Piazza Tommaseo, che l'ho sempre trovata molto bella, un bellissimo giardino, ho sempre apprezzato il risalto tra la bellezza di quel posto e le tonnellate di tamari in booster, i famosi San Carlini del 2006, appunto. Che bei termini che tiri fuori, quasi me ne scordavo. Te l'hai scordato il termine San Carlino, eh? Assolutamente, e ne facevo parte, tra l'altro, forse per quello che... Spieghiamo a chi non lo sa che il San Carlino era lo studente della scuola San Carlo, tendenzialmente di medio-alta borghesia milanese, e avevano tutto il loro stile di vestirsi. Che era la tua connessione wifi, volevi dire, praticamente. Vero Jack? Vero Manz? Niente, l'hotspot oggi non lo vuole usare. Ci sei? Sì, no, sto usando l'hotspot, ma nonostante questo chiediamo scusa a quei quattro ascoltatori che ci stanno seguendo oggi, la sfiga ci perseguita con sto wifi maledetto. Il balcone, deve essere la punizione per essere in maglietta senza maglietta sotto il sole. Sono senza maglietta sotto il sole, ma hai lubrificato? No, è meglio magno, come diceva Alberto Sordi. Vabbè, io comunque c'ho il jolly qua, la prossima volta che ti salta la connessione intervisto Acco. Bravo, questa mi sembra un'ottima idea. E poi il Parco Agricolo Sud, mi piace un sacco, che c'è un monastero piccolino che ci si può arrivare in bici. Mi piace un sacco dove vivevo, che era il Parco di Trenno, che era al limite nord-ovest di Milano, per cui uscendo di casa vedevi solo le risaie e niente oltre. Mi piaceva molto questa cosa per cui vedevi proprio il confine di Milano. Abbiamo dei contatti per il gas ELA, l'associazione al Parco Agricolo Sud, dei produttori di fanno farina, carne, uova, un sacco di galline, c'è anche un altro di formaggi, mi sembra, che alleva vacche. Continuiamo a perderlo il Manz. Acco, vieni qua che ti intervisto. Volevi dirci qualcosa sulla gentrificazione, vero? Buongiorno a tutti. Buongiorno. No, sulla gentrificazione con calma, perché non ho ancora neanche capito se sono le due o le tre, quindi oggi grazie a Dio c'era un pellario in casa e quindi è stato svegliato dal battere del martello. Però arriverai alla gentrificazione con calma, però se me lo imponi così posso provarci. E intanto volevo salutare anche il Jack, ma quindi non c'è in questo momento. Ma in questo momento vediamo solo il suo ciuffo e la sua fronte bloccati ad Atene. Faccio notare che ho detto il Jack perché mi è stato specificato che oggi è tema Milano, e quindi anche questo dell'articolo davanti ai nomi di persona è sicuramente una caratteristica peculiare. Assolutamente, noi chiamiamo tutti con l'articolo il Jack, l'Acco. Forse è tornato, ho sentito qualche brubum. Ciao Jack. Eccolo. Ciao, ti sento in lontananza io, ma ti sento e ti do un grande saluto. Mi dicono che sei... Ah, ecco, una cuffia così. E sei ad Atene. Sì. Al sì, sole, beato te. Sì, sì, adesso ho staccato la videocamera sperando che la mia connessione vagamente migliori. Ok, vabbè, speriamo. Noi parlavamo dell'uso degli articoli davanti ai nomi. Però per riagganciarci un momento ai San Carlini, ho trovato un pezzo dei Paninari anni 80, perché alla fine troppo non cambia, ci sono qualche differenza di stili, ma nell'atteggiamento forse siamo ancora lì. E vediamo se ho preso il pezzo giusto. Niente, non esce. Eccoci. Oggi è puntata disastrata della connessione, disastrata, ma sta per funzionare. Anche coi prezzi? No, coi presidente, come stai? Presidente, io bene. Tu senti? Io sentivo il pezzo, eh? Io no, invece. No. Non lo sento in cuffia. Qua ci sono dei macelli. Che tra l'altro ovviamente è la prima volta in cui ho pubblicizzato tutta la cosa, per esempio su Facebook, quindi c'è un sacco di gente che starà dicendo vaffanculo Manza, cioè attaccato a sta cagata per un'ora. Ma invece noi è la prima volta che non la pubblicizziamo, dai, quindi si compensa. Sì, abbiamo okay. Fai più ascoltatori tu che noi, comunque, sappilo. Ale, raga, più seguito se c'è un posto Manza che Exalge. Se c'è un posto che si libera come social media manager, assolutamente, guarda, è già libero. È già libero. Si è liberato oggi, dopo che qualcuno, ovvero sottoscritto, non ha fatto la comunicazione social. È stato declassato. E, vabbè, quindi se non si sente l'audio, io farei due chiacchiere su questo articolo. Come voi ne sapete qualcosa? Perché noi milanesi siamo tutti la Margherita, il Giovanni? Ma sai che non lo so, però mi ricordo un compito tipo di seconda elementare di ortografia, dove c'era la famosa regola non mettere l'articolo davanti al nome. E chiaramente l'ho messo davanti a tutti i nomi, e quindi insufficiente per il povero Giacomo a 7 anni. E questa è la maniera in cui le scuole milanesi credo abbiano la grazia di traumatizzare tutti i propri studenti. E non solo, perché poi alla fine non ottengono quello che volevano, cioè non farci usare l'articolo, perché alla fine, parliamocene chiaro, ce ne strafottiamo e continuiamo a usare l'articolo davanti al nome. Che è anche la ragione per cui si è perso il milanese, forse. Probabilmente sì. Ecco, te qual è un posto di Milano che ti piace, uno che ti fa veramente rabbrividire? Cioè uno che vai e dici, io piuttosto che metter piede lì faccio un incidente in bicicletta. Allora, uno che mi piace è il posto dove ho un legame sentimentale, dove ho passato tutte le sere adolescenziali, che è l'Arco della Pace. E quello, devo dire, che ogni volta che ci passo è un po' il ricordo di infanzia, adolescenza, e con tutte le sue contraddizioni, quindi nonostante in realtà poi superando i gradoni si arriva in una via in cui eviterei anche di passare, di locali e Porsche parcheggiate, l'arco in sé invece è sempre piacevole, e c'è un clima di una Milano che mi piace, ecco, quindi spesso musici, altre volte ragazzi con la palla, abbastanza un mix di persone diverse che mi piace. Posto sì, che... No, beh, parliamone, comunque è pieno di tamarri anche l'arco. Sì, ma non mi dispiacciono anche loro, cioè si inseriscono... Fanno parte del folklore. Sono una fauna in più, in mezzo a tante faune diverse. Ma invece che non mi piace assolutamente, che piuttosto farei un bel ciocco in bicicletta, è difficile. Piazzale Lotto, Piazza Firenze. Piazzale Firenze non è che hai scelta, lo fai comunque il ciocco. Lo fai comunque, ma poi è una piazza che non ha senso, ci sono tipo 50 ingressi da vie giganti, delle rotatorie fatte a metà con anche i tram, alberi che non si capiscono da dove escono e dove vanno. Invece siete passati da Piazza Archinto recentemente? No, però mi è stato detto che nonostante il Covid continua una gran movida in Archinto. Questo sì, sicuramente. Però non so se avete visto come hanno rifatto poi Piazza Santa Cosa, Piazza Archinto. Adesso apriamo un bel laboratorio di urbanistica. No, dovevamo invitare l'architetto, allora, scusa. Hai ragione, e non il presidente. Beh, lui è figlio dell'architetto, comunque potrà dirci qualcosa se ha in mente... No, io non ho visto i lavori in Archinto, devo dire che non ci passo da parecchio. Dal 61. la prima della gentrificazione di Isola. No, non è vero, però almeno un annetto, devo dire. Ah, attenzione, Acco ci ha fornito la famosa palla al balzo, che direi che cogliamo. Spara. Insomma, sta gentrificazione, vogliamo tirare fuori. Ma lui non so se era già ancora pronto, stava dicendo che si doveva svegliare, che non ha ancora capito se l'ora legale o l'ora solare. No, io sì, sono arrivato e subito mi è stata fatta questa domanda, dovevo ancora un po' rompere il ghiaccio rendendomi conto di essere un essere parlante. Dai, allora spacchiamo questo ghiaccio con Johnny Cannuccia, che sicuramente potremmo anche dire il Johnny Cannuccia, sempre di J-Ax articolo 31, questa canzone in milanese. Oggi bonus track di Domani Smetto. Infatti non la conosco. Adesso va. Ma guarda te sto pezzo di un altro disco doveva fare. Ma ha mandato pure da quel cazzo di psicanalista, doppia personalità, di doppia personalità. Sto cazzo, la personalità totale, qui è Johnny Cannuccia. E quando Johnny Cannuccia parla, sta merda di disco la si butta via. Maestro! Ma che cazzo fa questo? Portate l'altro maestro. Mi chiamo Johnny Cannuccia e l'ho cagato a Milano. E è una cosa tremenda, qualche me passa in davanti tutta. Mi chiamo Johnny Cannuccia perché sono magro e lungo. Perché mi piace ciala e giusan come il vinco anche le funghie. Sciura, sciura, sciura pur te maca. Oh oh oh, shura shura shura tu no duanda. Shura shura shura pur te madre. Yeah yeah yeah, shura shura shura tu minga in pe. Maestro Goni, qui. Johnny Cannuccia, sono anche andato al dottor, ma me diceva non beva più e mi godiva da al cu. Yeah, shura, shura, shura, pur te maca. Yeah, yeah, yeah, shura, shura, shura, tu no do andà. Shura, shura, shura, pur te via. Sorriso da bambina e la gamba si fulina, te sei la più separata dell'usteria. Yeah. Un'altra quartina te sposaria. Oh! È una traccia davvero lunga. Scritto? Però tutta la seconda parte è praticamente di chiacchiere in sala, quindi la mettiamo forse di sottofondo. Io sono arrivato adesso, non ho toccato niente. Anche se parlano anche loro, possiamo cercare di aggiustare i volumi. Ed eccoci qua. Eccoci ritornati. La gentrification, ragazzi, la gentrification. Io non so se sono pronto. Non so se sono pronto. È un tema molto importante. Facciamo un preambolo. Cioè, potremmo dire che qualche anno fa, grazie a varie cose che costano molto poco, tipo i voli con Ryanair, piuttosto che la possibilità di trovare una stanza a 15 euro a notte, ora non più, con Airbnb e effettuare un turismo decisamente mordi e fuggi da weekend, c'è stata un po' la possibilità, e nel caso di Milano l'Expo 2015 c'è stata un po' la possibilità di riqualificare e diciamo investire su dei luoghi che altrimenti erano più belli ma un pelino più poveri. Ricordiamo che comunque l'isola era il quartiere dell'eroina Milano, della pesante eroina Milano. Beh, e che prima di Isola anche con Cadenavigli, anche Monti anni 90, è sempre stato detto Massena fosse il covo della fine, che grazie alla Moratti è stato tutto bonificato, diciamo, e sono arrivati i residenziali delle nostre famiglie praticamente. Mi consenta, grazie Letizia, allora grazie al nostro sindaco, grazie quando c'era lei. Esatto. quando c'è lei. Che schifo. Comunque, è ancora lì. Trasformazione di un quartiere popolare in zona abitativa di pregio con conseguente cambiamento della composizione sociale e dei prezzi delle abitazioni. Sì, in realtà è un termine che è stato coniato da una ricercatrice, se non sbaglio, riferendosi a Londra negli anni 70. Adesso non ricordo né la ricercatrice né il saggio esatto. Però e forse non era neanche Londra. E forse non era nemmeno Londra. No, beh, quello ho osato dirlo perché mi ricordo che fossi era su Londra. Però poi si applica a diverse dinamiche, cioè una è un po' quella che ha spiegato Manza riguardo a Isola. In realtà poi, non lo so, mi viene in mente la gentrificazione del quartiere di Kreuzberg a Berlino, in cui le dinamiche erano un po' differenti, nel senso un quartiere che è stato rivitalizzato da artisti, da anche kebabari, da comunque gente un po' del popolo che faceva delle belle cose, da graffitari soprattutto, che hanno fatto questi graffiti incredibili, ma facendo ciò hanno rivalutato tutta la zona, che è stata assalita da hipster e gente che poteva permettersi affitti un po' più alti, e piano piano gli affitti si sono alzati, i tipi di negozi sono andati cambiando, e insomma quello è un esempio di gentrificazione in cui la cultura capitalista, in un certo senso, il capitalismo della cultura porta al cambiamento dei prezzi e dello stile di vita di un quartiere che precedentemente era un po' un hub, una nicchia di arte povera. Sì, diciamo. Guarda, che Scusa, vai Gio. Potrebbe partire dall'alto dal basso, diciamo, la rivalutazione, esatto, di un quartiere. Sì. A Milano ci sono tanti esempi, come potrebbero essere Isola e Garibaldi. Sì, rivalutazione dall'alto, forse, con tutta la costruzione di vari grattacieli, mentre i Navigli potrebbero essere una ricostruzione un po' dal basso, su cui poi qualcuno si è gettato a capofitto per approfittarsi, rinnovando leggermente il landscape e dicendo adesso potete pagare la Darsena, esatto. Cioè, hanno pedonalizzato le vie. A me un esempio che era venuto in mente di autoincularsi con un sofisticato sistema di specchi e leve come quella meravigliosa pagina è quella di Nolo. Alla fine, paradossalmente, le persone che ci sono andate a vivere proprio per questo motivo, è diventata un po' una nicchia artistica, di design, di musicisti, tutte queste cose qui, e poi hanno creato il manifesto del quartiere, hanno creato Radio Nolo, aumentando loro stessi, diciamo, l'hype del quartiere, e finendo poi per essere autoinculati, perché a quel punto chiaramente il proprietario di casa dice: ma sai che c'è, visto che ci vuoi vivere, paga di più per vivere qui. O via Padova, sta succedendo un pochino anche con via Padova. E poi invece, se posso pensare a quello che succede qua in Tre Torri, in zona ex Alge praticamente, credo che sia una gentrificazione della gentrificazione, perché qua è già stata fatta, è già stata fatta anni 90, è stata fatta per 20 anni fino adesso, e adesso no, non paghi, e sono arrivati 3 grattacieli e un'infinità di centri commerciali per togliere, diciamo, ancora di più la vita di strada e artigianale, ed è una cosa pazzesca, perché poi nascono gli appartamenti da 4 milioni in case tutte bianche che non c'entrano niente con i dintorni, come quelli di Zadid, fatti con i balconi in legno che si rovinano in 30 secondi. Io avrei una domanda da farvi a questo punto, perché mi è venuto in mente con tutto questo discorso, che è: non avete un po' paura? Cioè, adesso forse è un discorso che rischia di sfociare, tra virgolette, in una sorta di razzismo selettivo, ma non è questo il punto. Cioè, non avete un po' paura che poi anche ex Alge si gentrifichi? Cioè, che a un certo punto, come diceva Acco, la cultura del capitalismo e il capitalismo della cultura vi infilzino, e a un certo punto ci sarà quel momento famoso del compromesso in cui direte: che dobbiamo fare? Facciamo una bella serata trash Gigi Dag. Adesso la metto super estremista e so che, grazie a Dio, non succederà mai. Però non vi fa paura? Cioè, non è una roba che dite può succedere anche al posto dove che io ho fondato, che io voglio che sia fatto in un certo modo? Sì, beh, è un... più che una paura è un po' una consapevolezza continua, con la quale bisogna fare i conti tra le proposte che arrivano e quello che si decide di fare in un posto, è così, cioè fondamentalmente ci arrivano delle cose che sono un po' al limite e comunque a volte ammetto che le prendiamo in considerazione anche, ma non solo per una questione economica, ma anche perché a volte non è facile dire no a questo no perché va in questa direzione, cioè rischia appunto di diventare un po' selettivo comunque in una maniera non carina, cioè nessuno pensa di avere qui in Exalge la palla magica in cui si sa qual è la cosa giusta da fare. E quindi spesso adesso il concerto di Gigi D'Agno no, ma escono anche cose un po' fuori dalle corde per le quali noi spingiamo o pensiamo di spingere. E quindi boh, sì, bisogna un po' stare attenti con la consapevolezza che comunque siamo una piccola oasi dentro un mostro di città e ogni tanto questo mostro morde. Quindi sì, più che la paura c'è una consapevolezza di questo e bisogna essere bravi a reggere un compromesso, perché alla fine di compromesso si tratta, però in un modo bello aggressivo e cercando di portare noi fuori le nostre idee senza farci mangiare da quelle della città che abbiamo intorno. Mordiamo anche noi e siamo sicuri che la città dovrà scendere a compromessi con noi prima o poi. Beppe Sala in visita ad Exalge. No, Exalge non so, potrebbe essere un po' come Gigi D'Agno, Beppe Sala, come ospite. Tra l'altro ci sono elezioni a breve. Ci sono le due. Le elezioni, Jack si candida, presidente. No. Beppone e della destra ancora non si sa. Non si sa ancora chi ci sarà di là. Ma sono state rimandate però, se non sbaglio, no? Sì, dovevano, cioè sono ancora a destinarsi per Covid. Sì. Solo i vaccinati voteranno quest'anno. Sì, sarebbe un'incredibile selezione naturale. Vabbè, comunque, ma volevi leggerci una mail? Sì, perché questo si infila all'interno di una polemica. Figurati, c'è un mio amico che poi un giorno se l'è stampata e appesa sul frigo perché la mattina si fa due risate leggendosela. Purtroppo io ho questo brutto vizio del carattere che se vedo una persona che, ahimè, io ritengo essere un imbecille e ho la possibilità di scrivergli via mail, tiro fuori un po' il peggio e il meglio di me. E quindi volevo parlare anche di questa cosa, che è questa pagina Facebook che vi auguro di seguire, non per dare a loro più visibilità, ma per voi, per farvi due risate, che è Milano Città Stato. Ti hanno pagato, dillo. Sì, assolutamente, ma assolutamente. Sì. Sono il loro social media manager, in effetti. che sono veramente una combriccola di persone incredibili. Io mi ricordo un post che fecero sulle 10 migliori birrerie artigianali di Milano e riuscirono a fare due foto allo stesso locale, il Bicù sui Navigli, dove io lavoravo, una dalla fronte e una da dentro, vendendole come due birrerie diverse. Geni. Gli era piaciuto un sacco. Gli era piaciuto, poi era sbronzi come delle merda. Esatto. Dopo il giro di 10 birrerie, voglio vedere fare un articolo. Fallo il giorno dopo, però, cazzo, la base. Primo e secondo posto a Jack Manz. E quindi niente, sono delle persone un po' di questo tipo qui. Purtroppo scrissero anche una sorta di fecero un post per dire ci sono anch'io, nel cercare di diciamo tirare più in mezzo delle persone nel sostenere l'autonomia di Milano come città-stato. Milano, libera, subito. Esatto, cioè oltre diciamo l'antem degli articolo 31. E questa cosa mi aveva veramente ucciso, un po' perché c'è questo articolo del Foglio che consiglio a tutti, che si chiama Contro Milano, per quelli che hanno un po' un'idea un pelino più dissidente di questa città, che è molto interessante, molto lungo, ma molto esauriente, è un po' perché mi hanno fatto imbestialire, ed è una classica mattina di commuting in cui ci metti un'ora e mezza ad arrivare a lavoro, e quindi quale modo migliore se non insultare il povero stronzo di turno. E quindi cosa gli hai detto? E quindi adesso te la sparo. Buongiorno, sono un milanese, ma milanese, anche se prima abbiamo scoperto che non è così vero, ma comunque. Ed ma milanese, Milanese. E ho abitato nella mia città tutta la vita, per 27 anni, a parte una breve parentesi ad Atene che a quanto pare adesso si è riaperta. Ho vissuto in via Procaccini, in via Farini, a Quarto, a Trenno, in Accursio ed ora in piazza Prealpi. Beh, ora perché allora vivevo in piazza Prealpi. ho visto la mia città cambiare, l'ho vista crescere verticalmente in City Life ed Isola, e l'ho vista crescere orizzontalmente fagocitando l'Interland, espandendosi dal cielo a Varese. In tempi recenti, persone più intelligenti di me, certamente più autorevoli, si stanno chiedendo se Milano, più che un modello da seguire, sia invece un modello da evitare. Evitare. Questo perché non è una città inclusiva, per tantissimi motivi, e ve ne cito alcuni. Il primo è certamente il caro affitto, di cui stavamo parlando anche noi prima, che sposta persone al cuore della città, alla periferia, svuotando un tempo ricco, ma ricco di Milano in quanto Milano e non di Calzedonia. Insomma, la famosa gentrificazione. Dei piani di gestione del territorio a volumetrie libere più che discutibili e dei piani urbanistici che più che funzionali sembrano pensati da qualcuno che non c'è stato per più di 3 giorni a Milano. Vedi la biblioteca degli alberi. Ma che cazzo è? Un prato carino? E allora chiamiamolo così, perché anche lì la biblioteca degli alberi, ragazzi, non so voi, ma per me è una cagata gigante. C'è un prato mega umido, pieno di zanzare. Biblioteca degli alberi, ci sono 4 alberi, c'è un cipresso, un ficus, Però scusa, se lo chiamavi pratino delle zanzare, non so se ci andava molta gente. No, però pratino carino era più in tinta con anche il quartiere Galenti. Hai capito, era un pratino carino. Questo da riempirsi la bocca di come a Milano funziona tutto, ma basta. La retorica dell'autoincensarsi è vita breve e serve a poco. Milano non redistribuisce la ricchezza che genera, né in Italia né su chi la produce. Ha senso affermare che è meraviglioso lavorare a Milano? Fantastico. Esatto, io non credo, cioè le persone della mia età, cioè noi, lavorano mediamente alle 9 alle 19 per stipendi che gli garantiscono la sopravvivenza dopo che hanno speso un sacco di soldi per la loro formazione. Assomiglia a Londra, solo che perlomeno lì, oltre alla pioggia, tieni anche un salario proporzionale a quello che ti sei fatto. Costruire la linea 4 della metro e farla passare per il 100, ma vi sembra inclusivo? Stai per dire che ti sei laureato, ma non ti sei laureato. Stavo a dire che mi sono laureato, ma era assolutamente retorico. In quel momento non avevo voglia, non mi sento così retorico in questo momento. Okay. La fermata Santa Sofia, cioè anche lì possiamo discutere della linea 4, ragazzi. La linea 4 di Milano passa per 3/4 per il centro, che è già intasato di metropolitana, ma basta, cioè, non lo so, a me è sembrata un'altra di quelle robe che mi ha fatto imbestialire. E in più tutta la ricchezza prodotta non viene reinvestita. Da quanto la città non costruisce case popolari e non fa una politica di aiuto e sostentamento al caro affitti, a Berlino vogliono calmierarli, per dirne uno. Spiega questo calmierarli. A Berlino ci fu, all'epoca di questa mail, credo che fosse il novembre 2018, quindi ormai 2 anni or sono. Però allora, e credo che l'abbiano messa in piazza, abbia preso piede questa iniziativa di calmierare gli affitti, se non sbaglio, per gli under 28 e per gli studenti. Cioè, se sei uno studente non mi puoi sucare più di, non so, 350 euro al mese per l'affitto di una stanza, ovunque essa sia. Sarebbe un bel sogno, diciamo. Sarebbe una bella cosa carina. Cioè, da un lato uno si mette anche sempre dal punto di vista di chi quella casa l'ha comprata, però un conto è rifarsi di un investimento, un conto è lucrare su un povero Cristo che è venuto in quella città per studiare o per trasferirsi o per vivere. Badate bene, perché ho votato Pisapia e Sale, sono fiero dei miei sindaci, dei loro lavori di Pisapia. La foto sul Duomo di Milano con le frecce tricolori. Penso che non ci si possa dire niente. Anche questa fase adesso ritratto col senno di poi. Però allo stesso tempo leggere i vostri post che invitano all'autonomia, alla non redistribuzione della ricchezza, l'enfatizzazione del modello Milano, mi dà un nervoso che quasi mi fa pensare che tra le vostre fila ci siano solo 2 tipi di persone: immigrati italiani che si sono stabiliti qui e hanno amato Milano perché hanno trovato infine un luogo che li ha accolti, oppure dei milanesi, intesi anche come varesotti a questo punto, visto che desiderare l'autonomia di questa città metropolitana, così intrisi di neoliberismo che o avete tra voi Milton Friedman oppure l'avete assunto come stagista in un tripudio di economia libera. Anyway, sono qui per dirvi che ci sono anch'io per dirvi di andare a fanculo. A nome dei milanesi a cui questo paradigma di sviluppo esclusivo non va bene, a nome delle persone che hanno vissuto e vivono nelle periferie disagiate dove voi non avete mai messo un diavolo di piede, né vi ci siete mai radicati perché avete troppo impegnati a farvi i selfie a Lambrate District e a cercare una casa a Nolo, e se aveste le palle dovreste pubblicare anche chi non la pensa come voi invece che dar luogo ad una comunicazione monodirezionale inutile al dibattito. Cordialmente, Giacomo Manzoni. Cordialmente ci vuole sempre. E ti risposero mai? No, questo mi fece molto arrabbiare perché volevo una risposta. Certo. Anche tu gli scrissi un'altra sbordellata. Gliene scrissi anche un'altra sulle birrerie, appunto. Gli scrissi: ragazzi, siete degli imbecilli, il posto è lo stesso, fatevi di meno. Beh, a proposito di case popolari, io ogni volta che vado a Pero vedo tirar su giganteschi colossi in stile moderno. Belli, soprattutto dell'architettura utile per rivalorizzare le periferie. Sono proprio dei progetti. È la famosa continuità architettonica. Sì, cioè alto e grosso da qui all'eternità. Sì, no, è come se avessero resuscitato Le Corbusier, però è lo zombie delle Corbusier che fa delle cose disgustose invece delle cose che almeno allora sembravano vagamente funzionali. Comunque io volevo, prima vi ascoltavo, prima di arrivare qua in studio radio da Joe, e ho sentito che parlavate di questo artista che sta riportando un po' la poesia in dialetto milanese, e non vi ricordavate il nome, è Daniele Gaggianesi, a cui faccio volentieri pubblicità, è un amico di mio fratello, e sta spaccando anche, nel senso che anche un po' di autorità lo chiamano per congratularsi, dargli quei famosi premietti consolativi eccetera, però no, al di là di questo sta facendo delle belle cose, e tra l'altro dovrebbero esserci anche delle sue letture su YouTube in dialetto di sue poesie. Daniele? Gaggianesi. Giannesi, sta aspettando l'Ambrogino d'Oro. Sta aspettando l'Ambrogino d'Oro, sì. Ma quest'anno c'era Fedez, quindi l'anno prossimo. C'era il figlio di Fedez più probabilmente. Ma senti, invece questo articolo del Foglio contro Milano, è la tua mail pubblicata o...? No, era, in realtà fu una grande fonte di ispirazione, perché nacque tutto da, diciamo, una frase che disse Peppe Provenzano, l'allora ministro per la coesione con il Sud, non mi ricordo bene come sia, diciamo, il titolo preciso, che diceva questa cosa, che alla fine vari studi dimostrano che più che nazioni oramai il PIL viene prodotto da enormi agglomerati urbani che fanno qualcosa. Nel caso di Milano è un enorme agglomerato urbano che produce, però non redistribuisce perché alla fine in primis svuota alcuni posti dell'Italia dai giovani, perché alla fine, non so, studenti che vengono dal sud, che vengono a Milano per studiare, ce ne sono molti, però il flusso, diciamo, il flusso netto è un ingresso a Milano, non certo si ritorna a Rometta in provincia di Messina per portare l'ingegneria biotecnica, ecco. Si viene per restare, insomma. Si viene per restare, e questo è un grosso svuotamento. E primo c'è questo tipo di ricchezza che non viene redistribuita, e poi non viene redistribuita su queste persone che invece vengono lì a vivere. E ha fagocitato tante cose. Secondo me è una delle parti più divertenti. Infatti, qua aprirei una parentesi. È sul famoso dissing Roma-Milano, no? Sì, speriamo che Milano non fagociti tutto, insomma, che non diventi tutto Milano, perché non me lo augurerei mai. No, tipo il tema Chigno può anche rimanere qui e in caso chiudere e sarei abbastanza contento. Sì, assolutamente. Diciamo che la tua osteria, come si chiamava? La carbonara. Daniele. Sì, la cacio e pepe di Piazza Mazzini. Ecco, ne vorremmo di più piuttosto che il tema Chigno, non so, credo, magari Jack ha sorriso, preferisce il tema Chigno. No, io non mi posso esprimere per questioni sentimentali con la mia ragazza su tema Chigno, però lascio intendere comunque la mia idea, ma mi fermo qua. Cioè, la rivoluzione sì, ma l'amore anche, insomma, quindi bisogna trovare anche qui dei compromessi. Assolutamente. Il sushi distruggerà milioni di coppie nel mondo. La cacio e pepe invece è calce per le nostre mura. Oppure le ha già distrutte, no? Sì, le ha già distrutte. Le crea e le distrugge. Allora, piacciamoci Psyla. Poi mi raccontate cosa vi piace di Milano al di fuori delle viette in cui limonarvi le tipelle. Yes. Io pensavo di averla trovata, invece non l'ho trovata. Ma è quella con una sciura in costume? No, in realtà è Psyla, che vuol dire le cose sottili, ed è una canzone che a me ricorda un sacco Minnie the Moocher di Blues Brothers, e per questo e l'altro giorno che ero con un mio amico greco l'ha suonata in una maniera stupenda e quindi ho detto basta con le sbrodolate di Milano, mettiamoci un po' di Grecia. Balafas, Leonidas Balafas, e però c'è una versione che fa schifo e una jazz, quella jazz. Ok, io ho gravi difficoltà a trovarla, eh. Aspetta che metto l'accento sulla psilla. Aspetta che ti mando solo psytrance mi viene fuori, non so perché. Psilla Leonidas Balafas. Trovala. Trovo la frase. Ma cos'è, jazz greco? No, in realtà è una canzone assolutamente recente. Adesso potrebbe partire sul mio audio, vi chiedo scusa. Eccola, ce l'abbiamo. Però è una jazzatina carina. In realtà me l'ha fatta scoprire un mio amico greco l'altro giorno, che l'ha suonata e l'ha suonata molto bene e me l'ha fatta piacere. E tra l'altro prima o poi dovremmo suonare insieme, ho visto che c'è la chitarrina. Dovremmo fare c'ho un po' chitarra. Di scandalo insieme. Eccoci. C'ho la chitarrina. Che fa le schifo. Molto milanese. Era sfissa, se fevi che pai che mono ego, famino ego. Ρώσα το δέντρο που έχει ριζώσει και δίπλα του άλλο δεν λέει να φυτρώσει ψηλά, το κεφάλι ψηλά, ψηλά θα βγουν πάλι φτερά, ψηλά θα πετάξω, θα φύγω να ψάξω αυτούς που δεν ζουν χαμηλά και χτίσαν σπίτι ψηλά. Σμοδηλά, φιλά να χαπάει, φιλά να πονάει, φιλά να ανασένει, φιλά. Βάρια, χάδια θεριά και μια φωνή θλιμμένη χλωμή. Κομμάτια γυαλί, νερό χρυσάφι και μια ψυχή λιωμένο κερί. Κερί που μερόνυχτα μένει αναμένο. Δεν ξέρω τι ψάχνω και τι περιμένω. Ψηλά το κεφάλι ψηλά, ψηλά θα πουν πάλι φτερά, ψηλά θα πετάξω, θα φύγω να ψάξω αυτούς που δεν ζουν χαμηλά και χτίσαν σπίτι ψηλά, να βλέπουν το κόσμο δειλά, δειλά να χαπάει, ο δειλά να φωνάει, δειλά να ανασένει. credo abbiamo perso metà degli ascoltatori con questa grecata, forse erano dei milanesi convinti che si sono offesi parecchio. Probabilmente sì. Noi intanto abbiamo trovato una song, poesia del Gaggianesi. Attenzione. Non so chi di voi però è più abile a leggerla. No, l'abbiamo trovata cantata da lui, per fortuna. Non ci azzarderemmo mai. Però mi devi dire tu, a te cosa ti piace di Milan, le Gran Milan. Se dovessi dire mamma mia che roba questa, e non deve essere appunto la via con la Pischella e neanche la Madonnina. Ma io ho sempre fatto molto, cioè, questo mio carissimo amico romano che purtroppo mi ha adottato e ha influenzato moltissimo il mio pensiero, per cui molto spesso ho fatto mio il famoso detto romano: la cosa più bella di Milano è il treno per Roma. Grave. Si definisce milanese e tradisce in questa maniera. Assolutamente sì, ma è proprio il mio modo di vivere, disprezzare per poi no comprare. Ma direi che comunque ci troviamo quasi tutti d'accordo, come dice anche è un amore oggi. Articolo 31, me ne vado e poi ritorno, esatto. Me ne vado e poi ritorno. Esatto. Invece Jack, te cosa ti colpisce di Milano? Io, per rimanere su quest'onda qua, mi ricordo un'amica di Napoli che, venendo a Milano, disse: sapevo che a Milano non ci stava il mare, ma che non ci fosse manco il cielo non me l'avevi detto. Anche questo è un po', secondo me, ancora più da sud, ma sempre un commento molto amabile per la nostra Milano. E invece qual era la domanda? Però, se posso dire una cosa che a me piace o che comunque ha sempre affascinato, era la dimensione. Cioè, che magari non mi piace per tanti motivi, però il fatto di avere una bicicletta e poter andare un po' ovunque in una mezz'ora di tempo, 40 minuti al massimo, è sempre stata per me una fonte di grande libertà. Perché il fatto che fosse in piano, il fatto che appunto la distanza da coprire, per quanto fossero anche 9 chilometri, alla fine te li accolli, cioè non sono un grande problema. Questa è una cosa che a me piace tantissimo, cosa che ad esempio qua ad Atene non è possibile, perché se prendi una bici ti ammazzano, e perché tutta ha un su e giù. Beh, non puoi difendere la bici adesso, dopo aver detto che te l'hanno rubata in Via della Spiga. E poi vorrei sapere quante volte hai bucato, perché io di base cambio la ruota e poi la buco, e quella cambio e poi la buco. Io ti do un grande consiglio qui. Io ho smesso di bucare dopo che ho comprato i copertoni della Schwalbe, che sono internamente rivestiti in Kevlar, costano un paio di copertoni sui 35-45 euro, e ti assicuro che dopo aver montato quelli non ho bucato per 3 anni. Fantastico. Acquisteremo subito. E invece il pavé è comodissimo, binari, buchi, ti sei trovato sempre bene? No, mi hanno fatto sempre abbastanza bestemmiare. Una delle vie che mi ha sempre fatto più bestemmiare è via Vincenzo Monti, che ha gli ai faggi che buttano giù tutte le foglie in autunno, che ha piovuto, le rotaie, il pavé, eppure le cacchio di foglie, e ogni volta come pattinare sul ghiaccio, poi col motorino, figuriamoci. Conosco tanti, tanti incidentati in via Vincenzo Monti. Eh sì. E comunque, dicevi della dimensione. A me un'altra cosa che stupisce molto della dimensione è la grandezza appunto dei palazzi, come potevamo dire prima, e tornando da Formentera varie volte negli scorsi 3 anni, prima di questi altri 2 anni passati sul progetto Exalge, mi ricordo dell'impressione che mi faceva entrare a Milano in autobus e vedermi d'un tratto circondato dal grigio di palazzi giganti, alla grandezza delle opere dell'uomo che hanno un qualcosa di opprimente, se vedi cosa può fare l'uomo e come investe poi le proprie risorse. Invece sono d'accordo, è uguale, se penso anche al verde. Facciamo anche una parentesi, perché Joe non è il milanese che va a Formentera a dire figa voglio un mojito o delle cose del genere, se la sta vivendo in una maniera decisamente più franca, se possiamo definirla così, e direi che andava specificato. Sì, io e Acco facevamo Into the Wild nel nulla per un 3 anni, e a me se tornare qua a Milano è sempre abbastanza scioccato, non so Acco. Sì, vabbè, due mondi diversi. Poi io specificherei anche che Formentera, perché lì c'era questo terreno dove potevamo campeggiare e mettere un po' in pratica i nostri desideri di naturalezza e piantagioni. E poi sì, eravamo isolati da tutto il resto. Tornare a Milano ovviamente, ma come tornare già da Formentera a Ibiza per prendere l'aereo, chiaramente piano piano hai questi cambi di scenario belli forti. Però non lo so, io devo anche dire che Milano l'ho odiata tanto prima di fare un po' di giri per il mondo, e in realtà poi una volta tornato ho saputo apprezzarla. Non so se per crescita mia o anche proprio per avere in mente una cos'era da diverso da Milano e quindi cosa Milano andava preso di buono, e ora come ora una città che, al di là dei pave scivolosi, al di là della gentrificazione, al di là di tante cose, amo. E spero che possa cambiare in una buona direzione, perché ci sono un sacco di potenzialità e un sacco di bei progetti giovani che stanno nascendo, e anche un po' di consapevolezza verso un abitare più sano per tutti. Quindi insomma, volevo lanciare questa nota di positività. Fai bene, io la condivido appieno, nonostante, se pensi al bosco verticale, ai giardini di Isola e Garibaldi, nonostante tutti quei tocchi verdi, sembra tutto un po' artificiale, la cosa mi scombussola parecchio. E mi ricordo il primo anno che aprì quel giardino, avevano fatto un campo di grano, adesso non so se c'è ancora un campo di grano. Un'installazione artistica, prego. Scusi. cazzo, installazione artistica. Stavo per dire che mi sembrava tutto abbastanza grottesco, invece dopo che hai detto sta cosa mi sono venuti proprio i brividi. E me ne tornai a casa con una spiga di grano legata da una carina fascetta di vimini, che ne so io. Boh, c'era tutta sta roba del grano in città, il fatto là, ma trovo che sia molto diverso, nonostante subdolamente simile al provare a fare degli orti urbani, a provare a cambiare nel nostro piccolo il nostro modo di vivere la città, di abitarla. Jack, su questo una palla tra l'altro clamorosa, vai. Perché non so se avevate letto di questa storia, un altro dei grandi prodotti di Milano sono i bocconiani. I romani, dici? Non solo. Cioè, ci fu questo grosso scandalo, non so se l'avete letto o se avevate visto in mente gli apecar che vendevano la frutta fresca, adesso mi sfugge il nome, tipo i mirtilli, le fragole, ste cazzate qua, per strada. Ti vendevano la cassetta a un prezzo da oreficeria, tipo 5 euro, 250 sì, grammi. Sì, ricordo l'hype, c'è stato, sembravano quasi dei bitcoin a un certo punto. Esatto. E morale della favola, uno dei grandi prodotti di questa città sono anche i bocconiani. Perché? Perché questa impresa l'ha tirata su un bocconiano che coltivava nei campi, se non sbaglio, vicino all'area Expo, questa meravigliosa frutta di stagione. E peccato che aveva messo su un meraviglioso sistema di caporalato, per cui sono uscite delle intercettazioni che veramente facevano accapponare la pelle. Cioè, questa persona veramente schiavizzava le persone. E questo per dire che comunque, ecco, sì, bello, diciamo, appunto, fare installazioni artistiche col grano, sì, bello coltivare, poi però bisogna sempre ricordarsi che non è tutto oro quello che luccica. Mi ha fatto morire, quella lì è stata una storia di 2 settimane in cui, o un mese per dire, ma brevissima, in cui dal fare milioni sono stati coperti di merda, letteralmente, passatemi i termini. Tu invece, Acco, secondo me potresti illuminarci un po' su quel campo di grano, su Isola e sul modo di abitare la città, un po' sul progetto Exalge e gli orti urbani. Sì, mi sembra che tu ci abbia scritto una tesi sopra. Caporale Acco, ci dica. Caporalato, come si sfrutta l'agricoltore sottopagato? Ma in realtà è un po' quello che abbiamo già detto, secondo me, la tematica centrale, ovvero da dove si costruisce la città, nel senso dal basso, dall'alto, e in che modalità lo si fa. E purtroppo Isola, così come City Life, così come quasi tutte le grosse opere che sono state fatte negli ultimi anni, ma non solo, sono state fatte dall'alto, cioè calate dall'alto, con la presunzione di seguire dei modelli funzionanti di altre città europee e internazionali, e quindi portando a un'idea di metropoli globale come unica soluzione per stare al passo con i mercati, per stare al passo con un mondo in crescita economica. E questo, secondo me, è la grande illusione di chi porta avanti questo modello, perché in realtà è un modello che va autodistruggendosi continuamente e non va a creare vero valore tra le persone, non va a portare appunto un valore condiviso tra i cittadini, a costruire un'immagine di città che li rispecchi, ma invece li aliena. E quello che dici tu, Gio, dell'effetto che ti fanno i palazzi grigi, o quello che stiamo dicendo su tanti aspetti che non ci piacciono della città, sono il frutto di questo modo di operare. E quindi, al di là dello specifico dei casi di Isola o di Exalge, anche nella maniera opposta, penso che ci sia proprio questa dinamica qua di sottofondo che va in qualche modo cambiata, e lo si può fare, credo, ascoltando tutte quelle piccole realtà che cercano di portare avanti dei modelli di abitare differenti, dei modelli di abitare che tengano conto delle necessità di chi abita un quartiere prima che della necessità di avere degli investimenti economici, e facendo questo forse un giorno ci troveremo a vivere in una città, come viene detto, più a misura d'uomo e che rispecchia un po' più le idee di chi i quartieri li vive e li attraversa quotidianamente. Se non si fosse capito, siamo tre vetero comunisti a cui non piace troppo il capitalismo, ecco. So deep, man. No, sì, è no global tutta la vita in una città global, per ma, quello che... Ma sì, ma si può essere anche... Cioè, va bene anche il global, va bene guardarsi intorno, va bene tutto, però ci deve essere... Cioè, il mio dire, la città va costruita da chi la vive, non è un no global, ma è... banalmente dire che sarebbe meglio così per tutti, e ascoltare un po' più le necessità dei cittadini e lasciare più spazio a coloro che cercano di muoversi al di fuori delle maglie strette della burocrazia e del capitalismo turbo capitalismo. Sì, va bene, lo ammetto, odio il capitalismo, beh, ma infatti no global non vuol dire assolutamente non viaggiare, non scambiare culture e non approfittare di una rete intelligente in tutto il mondo di scambi economici e materiali, ma andare contro al come viene fatto. Sì, poi, è un complotto, sì. No? Se siamo qua, mi sembra. È un complotto. C'è un complotto siamo dietro? Qua. Sì, c'è. Gattes. Rothschilds. Allora, io vi sparerei la canzone dell'Interland di Daniele Gaggianesi, Corsico, Milano, Lombardia, secondo classificato della sezione C, lavoro della sezione C, poesia inedita della terza edizione del concorso Salva la tua lingua. Viva il milanese. Viva la canzone dell'Interland, o la responsabilità della felicità. L'Interland mo se disse da ai votur, anche se l'è quasi festa, del punt di mort. Di viv, sbattutus contro il mur dell'inverna che te piove giol cunt. E il Max sognava de fal giugadur, d'erva i gelusi cunt el nas stupà, dal fum neger dell'inceneridur. Ostia, gel gancetta mo scardinà! Ma sarà minga raffredur. A sbatte gin sul grugn la responsabilità della felicità. La pissa la ste. In delidru massage, varda su gas l'umbrella col Van Gogh, cui gira su stampa in del sud e maggi, gat balos, che nastrepa via un toc. Dopo se sdì al banc della finanziaria, el già le lì impasticà fino ai dour, a travia l'ingossa vardan per aria, adesso in pe, che geverte il Carrefour. Sarà minga in iul magunent, sura il ciel dell'Interland, a bulgirag in faccia la responsabilità della felicità. Appena se le vada su, la chia la s'è scrusciata anche a mo sotto al taul, con ticart del divorzi, a frega via la nostalgia balurda bel so diaul. A mol dorma il fede, disoccupa, anche se gaioj sbarà di cincur, sul cusim masarà a regurda la Thailandia, e cicugn migradur, ma saranno anche al passà. A sbatte glin sul taul la responsabilità della felicità. Dorma lontan la città, del vapor, fuori della tangenzial. Stamattina, dumai discende l'inceneridur, pare in tuntan quei cos alla Sarina, e al Dede, a Tuccia, alla Susi, alla Fra, diminuì in di non come in dell'anima. Nessun le bunde legge quel disegnà, nanca mi, in stu frecce de quasi domenica, e sarà nanca una rivelazione, o una befana, a sbatte in faccia, come una grazia, la responsabilità della felicità. La responsabilità della felicità. Beh, probabilmente servirebbe una traduzione. C'era. C'è, però non... La, cosa facciamo? La rileggiamo traducendola per gli ascoltatori? O... Non credo. Beh, direi che possono andare a cercarsela, spulciarsela, così fanno anche un favore al poeta. Ok, noi siamo stati la 136esima visualizzazione, spingiamo, vediamo a che numero arriva entro... Puntiamo al 140. Puntiamo al 140, esatto. Canzon dell'Interland, Canzon dell'Interland, come direbbe il nostro amorevole, di Daniele Gaggianesi. Andatevi a cercare la traduzione se non avete capito una parola, perché è veramente deep e soprattutto complottista. Ma facciamo gli ultimi 10 minuti? Come vuoi, guarda. Vai, va bene. Direi che non parliamo di cosa ci fa ribrezzo, perché è tutta la puntata che ne parliamo, no? Sì, no, beh, in realtà è stata abbastanza equilibrata, cioè ci sono state le note positive di Acco, io che ogni tanto ho sgomitazzato qualche cosa brutta, ma anche una punta di romanticismo. Insomma, c'è stato anche tu, hai dato qualche nota positiva, direi che è stata tutto sommato abbastanza equilibrata, poteva andare molto peggio. Il nostro sogno chiaramente di avere Beppe Sala qui che ci parla lui di Milano. Io non sono un grande fan, però sarebbe sì, il nostro sogno. C'era tra l'altro in quell'articolo del Foglio di cui... Tra l'altro ve lo straconsiglio, c'era proprio questa discussione su Beppe Sala, cioè sul fatto di come sia trendy anche lui e di come venda l'immagine di Milano per com'è, di come sia effimera. Ma virgola, io direi che gli ultimi 5-10 minuti li possiamo spendere sul rito collettivo milanese per eccellenza, che è il rito che ha distrutto macellai, elettricisti e qualunque tipo di piccola professione presente all'interno dei quartieri, cioè l'esse lunga. Ah, l'esse lunga, però io volevo anche leggere quell'estratto dal Foglio, mi sembrava simpatico. Ah, vai, allora andiamo. Leggo quello e poi ci divertiamo sui caprotti. Ci divertiamo, esatto. Via. Poi sì, vabbè, magari oscuro la parte di Sofia Viscardi, che è la nostra collaboratrice praticamente, però non l'abbiamo... Ecco, i famosi compromessi di cui parlavo. I famosi compromessi, non l'abbiamo scritto noi questo articolo comunque, e magari poi quando, questo, visto che è registrata questa puntata, quando verrà messo in podcast, bippiamo il nome. Sì, facciamo un bel tagliacuci. Anche i romani, un tempo baldanzosi oppositori della milanesità, sono mimetizzati e sono stati assimilati. Non c'è più l'ombra dello sdegno di un tempo. La cosa di migliore di Milano è il treno per Roma. Alcuni sono addirittura inseriti nei gangli della nuova Milano, soprattutto femmine come Lorenza Baroncelli, boss della Triennale, Irene Graziosi, autrice e agitatrice culturale instagrammatica che presidia sui media della città-stato il prezioso segmento delle giovani donne. Spiega la gioventù milanese e dunque italiana insieme alla instagrammer Baby Beep. Sono celebrità a Milano, prese molto sul serio, fuori chissà. Graziosi assomiglia molto peraltro a Pilar Fogliati, la ragazza romana che imita i vari accenti. Abituato all'assenza di sfottò, il milanese è agitato, performante, mai domo. Il nuovo Bauscia è ecologico, femminista, con la sua borraccetta. Alto, biondo, fascista. No, tra l'altro anche Irene Graziosi è associata a Exalge. Ma se salutiamo, vale. Diciamo che li vogliamo bene, questa cosa l'ha scritta al Foglio, noi siamo soltanto in parte d'accordo con questo. Cioè è vero che il nuovo Bauscia è ecologico e femminista con la sua borraccetta, però salutiamo Irene Graziosi e Sofia Viscardi. Assolutamente. E gli AirPods. Anche perché ci teniamo anche a dire che appunto è un utilizzo alla fine quello che fanno, poi del... Vabbè, no, niente, perché poi adesso sto per dire una cazzata, quindi sto zitto. Vai. E gli AirPods perenni che gli pendono dagli orecchi come gioielli di un faraone. Controlla le luci e le caption del tuo Instagram. Ti parla del suo progetto, della sua idea, della sua startup. E poi il cibo, con Felice a Testaccio, che ha aperto a Milano e presidia il food insieme al pizzettaro filologico Bonci, che si inserisce nelle temperie panetterie, nella temperi panetterie, ma poi a contrario, ecco il milanese, anzi pavese, Max Pezzali a celebrare Roma, ormai simbolo dell'alterità deindustrializzata. Nel suo nuovo brano In questa città, uno sgangherato canto d'amore per Roma tra cinghiali, code ai taxi e In questa città c'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo. Insomma, Roma come alterità possibile, vado a vivere a Roma e il nuovo vado a vivere in campagna. Beh, Roma è molto bella. Un grande applauso all'operato della sindaca. Esatto, forse è anche merito suo se alla fine Milano è diventata quella che è diventata. Cioè, alla fine lei è tutta colpa della Raggi, poverino. I cinghiali. No, comunque andatevi a ascoltare Canale di 20, ci sono delle belle interviste di Sofia Viscardi e anche di altri soci Exalge. Ci fa sempre piacere ospitarli. E... anzi, potremmo pensare di chiedergli di fare un'intervista, no? Cioè, ci starebbe chiedere anche un po', approfondire un po' questa cosa, cioè se ci fosse la possibilità. Certo, tanto noi non siamo così diversi alla fine. No, da questa descrizione del foglio, anzi. Beh, l'unica cosa è che non ci siamo in questa descrizione del foglio, quindi forse quella è la nostra differenza. Vabbè, spara quello che volevi sparare. No, il grande rito collettivo dell'S lunga, cioè quanto sono entusiasmate le persone che non vivono a Milano da sempre sull'S lunga, io l'ho sempre trovato affascinante. Sì, spieghiamo ai nostri radioascoltatori che alla fine è un supermercato esatto. E ce n'è in tutto il mondo uguali, esatto. Se i prezzi sono bassi forse perché la qualità allo stesso tempo, lo sfruttamento uguale. Sì. E magari anche gli zucchini, se per caso vi capita di comprarne uno all'S lunga, poi vi passa la voglia di fare una frittata. Sì, sembrano quelli dell'Albert Heijn in Olanda, più o meno. Ma perché, per un attimo di ignoranza, è solo milanese? È zona nord, sì. Credo che forse ci sia qualcosa in Liguria, ma... Ce n'è una a Firenze, me lo ricordo, l'S lunga del Galluzzo, perché ci sono stato. Però credo che ce ne sia una a Roma e poi addio. Sì, non è proprio ovunque. Nordica, sì. È nata a Milano, insomma, sì, dalla family Caprotti. Vabbè, io poi non saprei aggiungere molto, a parte il fatto che le zucchine sono d'acqua e le trovi anche a dicembre. Assolutamente. No, sì, è curioso, secondo me, che sia diventato un po' rito collettivo e abbia, secondo me, in un qualche modo anche contribuito a svuotare le vie di Milano dai famosi piccoli artigiani che tanto decanta il nostro buon amico Matteo Salvini, nel senso i macellai, cioè alla fine il macellaio adesso a Milano è diventato una cosa fancy, no? Ma il macellaio è molto fancy, molto fancy, cioè anche il macellaio dentro l'S lunga, per quello. Sì, è per quello che dico, cioè sono stati in questo senso qui. Sono tutti dentro lì, ci sono pochi che resistono. Recentemente era andato a un macellaio in Piola, di cui non faccio il nome, ma di cui provo una stima pari a zero, che vendeva la mortadella, se non mi sbaglio, a qualcosa come, tipo 38 euro al chilo, cioè una roba che dici, Non è possibile, questo è macinato delle peggiori parti di maiale. Esatto, cioè è un wurstel più buono questo. Va bene, di cosa parleremo la prossima puntata? Non lo sappiamo, c'è qualche idea? Non lo sappiamo, cosa avevamo in ballo? Cioè, avevamo in ballo Always Grecia. Always Grecia? Giusto. Always Grecia potrebbe essere la volta buona. Magari sento un mio amico greco per farci due chiacchiere anche con lui su varie situe attuali. Ci sta. Potrebbe essere un'idea. E io poi probabilmente farò dei parallelismi con altre parti del mondo, così per non farla monotematica. Così come tu hai messo oggi una canzone greca su Milano, io ti spezzerei le note nel sirtaki. Esattamente. Va bene, chiudiamo la diretta. E ci mettiamo Mac Miller con Surf di Mac Miller. Va benissimo, eccola. Ciao Gio. Ciao bello. Ciao. Grazie mille per esserci stato e grazie ancora. Grazie a voi ragazzi. Ciao. Ciozzo. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. world is open, a playground for me and you, and we could be fine. Shit, who the hell knows? It's your eyes and your ears and your mouth and your nose, head and your shoulders, your knees and your toes. I dream of this moment, will it come true? The whole world, they know it, they just waiting for me and you. And she, just like I, got her head in the clouds. Don't need to be lower before it's all over. I promise we'll figure it out. I ain't coming down, why would I need to? So much of this world is above us, baby. They might tell you that I went crazy. I'm just trying to read you. Mm-hmm. I know we try, and the days they go by until we get home. There's water in the flowers, let's grow. People, they lie, but hey, so do I. Until it gets old, there's water in the flowers, let's grow. Let it go, let it be. We'll be right back. questo era Surf dei Mac Miller, da mandare in loop tutta questa domenica, che vi auguro buonissima a tutti voi ascoltatori milanesi di Radio Exalge. Alla prossima, e ricordatevi che ci dissociamo interamente appieno da tutto quello che scrive il foglio. Buona domenica.